Buonasera a tutti e a tutti, questa è Gatto Selvaggio, lavoro, precarietà e conflitto, in onda su Radio Asilo. Di nuovo buonasera a tutte e a tutti. Lunedì 19 è stato lanciato lo sciopero generale in tutta la provincia di Firenze per sostenere la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici GKN dello stabilimento di Campi Bisenzio, che erano stati licenziati la mattina dello scorso 9 luglio senza alcun preavviso né tutele né con proposte di soluzioni alternative. Un licenziamento che era avvenuto, tra le altre cose, in una maniera vergognosa attraverso una mail. Lo sciopero era stato lanciato inizialmente dai sindacati confederali per sole 4 ore, ma è stato poi proclamato anche dal sindacalismo di base ed è stato esteso all'intera giornata lavorativa. La chiusura dello stabilimento ha visto una risposta immediata e determinata degli operai, che sin da subito hanno ripreso possesso della fabbrica per impedire che la proprietà smonti e delocalizzi le linee e che svuoti il magazzino dai pezzi prodotti. La parola d'ordine è stata, fin dalla prima assemblea, da questa fabbrica non uscirà una vite. Eppure, all'inizio di giugno, il presidente di Confindustria Bonomi ci raccontava che c'era alle porte un piccolo boom economico. E in effetti per qualcuno le cose vanno bene. Paradossalmente era stata proprio ACEA, l'Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei, a comunicare qualche giorno fa che le immatricolazioni di nuove auto nel primo trimestre del 2021 erano esplose rispetto all'anno precedente. E quindi anche Stellantis, il gruppo di cui fa parte la Fiat e FCA, che è committente principale di GKN, che produce i semiassi proprio per la Fiat, ha registrato degli aumenti delle vendite molto maggiori rispetto alla media. Ed è paradossale questo se si pensa che nella mail con la quale sono stati licenziati i lavoratori e le lavoratrici le motivazioni addotte erano il calo generale del mercato automobilistico, la grande competitività sui prezzi nel settore e semplificare ed abbattere i costi della produzione tra i vari siti produttivi. Questo che significa? Significa che nonostante si vendano le macchine bisogna abbattere i costi, e quali costi si abbatte? Ovviamente il costo del lavoro. Cioè, alla fine di tutto, chi paga sulla propria pelle sono sempre i lavoratori e le lavoratrici. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become, my sweetest friend? Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. CGL, CISL e Will esultavano a inizio luglio per aver strappato ai padroni poco più di una promessa a non affermare i licenziamenti, ma a succhiare fino all'osso le risorse statali prima di licenziare. Però appena è scattato lo sblocco dei licenziamenti voluto da Confindustria e dal governo Draghi, è calata la mannaia. La Giannetti Ruote, storica fabbrica di ruote d'acciaio in Brianza, di proprietà di un fondo statunitense, ha licenziato senza alcun preavviso, e anche qui con una semplice mail, 152 operai dello stabilimento. La Timken di Brescia ne ha licenziati 106, la GKN di cui abbiamo parlato prima, di Campi Bisenzio, 422, e la Whirlpool a Napoli, 327. Al momento ci sono ben 89 tavoli di crisi aperti al Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi chi parlava di boom, chi esultava per la fine dei licenziamenti, ovvero padroni e sindacati confederali che vanno sempre a braccetto, si rivelano per l'ennesima volta dei criminali truffatori. L'unica soluzione possibile è la requisizione degli stabilimenti, per evitare in questo modo che le fabbriche vengano smantellate o per garantire comunque la continuità produttiva sotto controllo pubblico. Dovrebbe essere inoltre compito dello Stato strutturare un piano economico che garantisca la produzione delle fabbriche e le vendite. Ad esempio, nel caso della GKN, definendo la produzione dell'auto in toto in Italia, facendo sedere al tavolo il gruppo Stellantis e obbligando la Fiat a continuare a comprare i semiassi dallo stabilimento fiorentino di GKN. E questo ovviamente può essere imposto solo con un movimento di massa, può iniziare e può essere imposto solo con un movimento di massa, un movimento che ribalti i rapporti di forza. Domani smetto di smettere, farò più cifre che lettere. Bevo birra con la cenere, ride della depressione il mio malessere. Io non ho niente da perdere, sono un fegato da vendere. Vuoi una vita, valla a prendere. Io una villa, da una vita non ti arrendere. E già da domani smetto, non ho sogni nel cassetto. Una pistola col grilletto, molto più sensibile di me. Porterò te mani in alto, sto solo con le mutande. La mia merce è stata un altro, quindi che tenga vere. Che me ne fotta a me? E già da domani io smetto di smettere. E sbagliato galassia, ne sbagliato galassia, e sbagliato quartiere, ne sbagliato quartiere, e sbagliato palazzo, ne sbagliato palazzo, ma è sbagliato persone. Canna mozzurin da custo di reghitar, l'arte povera rapino negozianti guariar. Sombria che pensa niente te che ce ne varia, all'uscita d'emergenza d'oronca qualità. Vieni dal blocco, vengo dal blocco, la faccia è triste, la rete è barocco. Sono Thomas Shelby, pisticare da scrocco, la merce è dolata, viene dal Marocco. Spara già da domani smetto, non ho sogni nel cassetto. Una pistola col grilletto, molto più sensibile di me. Porterò te mani in alto, sto solo con le mutande. La mia merce è stata un altro, quindi che tenga vere. Che me ne fotta a me? Repubblica fondata sull'avere. Però più stai perdendo tempo per la grana, più perdi valore. Se i soldi sono amici, seppelliteli e ve li ritroverete. E quando morirai, più che ricordarti, non possiamo farci niente. Qualche giorno fa i lavoratori e le lavoratrici GNK hanno pubblicato uno schematico comunicato che in 10 punti riassume e chiarisce alcune cose in maniera estremamente efficace. Lo leggo per intero perché credo sia il modo più efficace per inquadrare la questione. Punto numero 1. I lavoratori GNK non sono 422, sono oltre 500, perché noi siamo tutti colleghi sotto lo stesso tetto, interni e ditte in appalto. 2. Siamo stati licenziati con una modalità atroce e con una violenza psicologica importante. Questo aiuta a farvi capire che abbiamo a che fare con persone senza scrupoli. Tuttavia, chi si concentra solo sulle modalità con cui siamo stati licenziati, si concentra sulla forma e non sulla sostanza. 3. Chi parla di caso specifico GNK si mette quasi sullo stesso piano di chi ci vuole chiudere, ma soprattutto mette in pericolo tutti i lavoratori di questo paese, perché nega implicitamente che siamo gli ultimi di una lunga serie e i primi di una ulteriore serie di chiusure e delocalizzazioni. 4. Se sfondano qua, sfondano da tutte le parti, perché siamo una grossa azienda e siamo organizzati. Immaginatevi aziende piccole e meno organizzate. 5. Chi parla di indennizi e di ammortizzatori si mette quasi sullo stesso piano di chi ci vuole chiudere. Noi siamo in fabbrica, questa è casa nostra, da qua non ce ne andiamo. Qualsiasi altra cosa che verrà sarà il risultato della nostra disperazione economica, non di certo della lotta. Ma l'obiettivo della nostra lotta è solo e soltanto bloccare i licenziamenti, qua e ovunque. 6. Il MISE venga qua a incontrarci. Le multinazionali delocalizzano. Noi invece chiediamo di localizzare la trattativa. Sempre che il MISE abbia il coraggio di reggere lo sguardo di una comunità orgogliosa e non piegata. 7. La nostra vicenda si lega indissolubilmente a quella di FCA Stellantis. Cosa dobbiamo aspettare per una mobilitazione del settore? 8. A tutti coloro che ci portano solidarietà, circoli ARCI, categorie sindacali, singoli lavoratori, eccetera, diciamo grazie, grazie, grazie. Non riusciamo a rispondervi né a citarvi tutti senza fare torto a qualcuno. Sarà lunga. Non dimenticateci quando l'attenzione mediatica calerà. 9. Proprio per avere un canale di solidarietà più puntuale, nascerà una pagina di solidarietà all'avvertenza. Avrete notizie a breve. 10. Sciopero generale e corteo nazionale. È quello che stiamo valutando. Avrete nostre notizie. Abbiamo le lacrime agli occhi, mille storie umane da raccontare, ma oggi non è questo il punto. Non siamo i poveri operai che vanno a casa. Siamo dignità, orgoglio e resistenza. Fate un favore a voi stessi unendovi alla nostra lotta. Insorgiamo. Ballerà. A Napoli, come già accennato, la Whirlpool ha chiuso la partita. La multinazionale ha annunciato di voler procedere con i licenziamenti collettivi per gli operai dello stabilimento locale e l'amministratore delegato La Morgia il 15 luglio ha annunciato ufficialmente l'avvio della procedura di licenziamento collettivo. La scelta è stata motivata, a detta della dirigenza, a causa del forte calo della domanda delle lavatrici prodotte a Napoli, che ha reso insostenibile per Whirlpool tenere aperto lo stabilimento. Tutto questo nonostante l'azienda abbia disatteso qualunque genere di accordo e usufruito ovviamente di tutti i benefici del caso, perché come al solito il padronato non si fa problemi a cannibalizzare i fondi statali. Anche il MISE ha detto addirittura, quindi non un nemico della classe padronale, ha detto che la Whirlpool sta decidendo di avviare una procedura di licenziamento collettivo senza alcuna motivazione fondata. E appunto, gli ammortizzatori sono stati presi e accettati senza problemi, ma ma d'altro canto le decisioni, diciamo, alla facilitazione di un dialogo non sono state, invece, al contrario, sono state prese unilateralmente e senza coinvolgere le parti. Dopo la decisione c'era stato un presidio di un centinaio di lavoratori della Whirlpool che hanno protestato fuori dal carcere di Santa Maria Capua Vetere quando era prevista la visita di Draghi, ma purtroppo come ci si poteva aspettare del resto, un governo amico dei padroni non è certo interessato alla questione. E purtroppo, come sempre, come già dicevamo, perché è sempre così, chi paga sono i lavoratori. Scelte senza senso, come appunto ripeto, se addirittura il MISE dice che non c'è alcuna motivazione, vuol dire che siamo davvero ad una scelta folle, che purtroppo ricade addosso ai lavoratori e alle lavoratrici, le cui vite evidentemente per i padroni, ma a questo punto anche per il governo e per i sindacati confederali, non contano assolutamente nulla.